piano. Di Enrico Ruggeri. Siamo a un concerto rock e c'è un signore che si chiama Bruce Springsteen che sta presentando un suo musicista e lo presenta così: The Big Man, Big Kahuna, il ministro del suono, il maestro del sexual healing, il probabile futuro re d'Inghilterra. E insomma, avete capito che è una persona della quale Springsteen non poteva fare a meno, comunque della quale non ha fatto a meno per molto tempo. Stiamo parlando di un inimitabile, un grande uomo nel senso anche letterale del termine. Il protagonista della storia di oggi si chiama Clarence Clemons. Quasi 2 metri di altezza, ma una statura artistica e umana superiore anche a quella fisica. Lui è stato il collante di tutti i concerti di Springsteen di quel periodo, musicalmente parlando è stata la cerniera tra le chitarre e la sezione ritmica, e ha giocato la partita dell'anticonformista dal punto di vista caratteriale, l'uomo di colore creativo, eccentrico, quello che si vestiva con degli sfarzati completi rossi, magari in mezzo ai jeans, a giubbotti di pelle degli altri musicisti, quello che ha portato una diversità a una banda di rocker bianchi della classe operaia del New Jersey. In fondo Clemons e Springsteen sono stati un po' lo yin e lo yang, le due diverse facce della medaglia del rock, due estremi che si sono fusi in una collaborazione, in un'amicizia che è durata 40 anni fino alla morte di Clemons nel 2011. E Clemons non è mai stato una spalla nel senso tradizionale, anche perché Springsteen è sempre stato un musicista da band, è sempre stato uno che ha avuto ben presente la forza che può avere una band rispetto alla forza che può avere un singolo. Io l'ho visto insomma con i miei occhi scendere dalla macchina con tutta la sua band, per esempio in un Sanremo nel quale io c'ero e lui era ospite. Ho visto altri magari membri di band arrivare ognuno con la sua macchina. Ecco, Springsteen non era uno così. Come diceva Bruce, Clemons era un grande cantiere, cioè c'erano sempre dei lavori in corso. I percorsi di Sea non erano mai lineari. La sua vita non è mai andata lungo una linea retta. Non andava mai così. A, B, C, D. Era sempre una cosa come A, H, C, Z, Q. Questo era il modo in cui ha vissuto Clarence e con cui si è fatto strada nel mondo. Clarence e Nicholas Clemons nasce nel gennaio del 42 in Virginia. Il padre è un pescivendolo, il nonno era un predicatore battista. Famiglia normale, religiosa, brava gente che va in chiesa la domenica per pregare, per ascoltare la predica del nonno magari, ma anche per trovarsi con gli amici e per cantare assieme, ovviamente il gospel. Solo quello, perché il rock and roll nella famiglia Clemons viene visto come il diavolo. Stiamo parlando dei primi anni 50. A Clarence piace cantare nel coro della chiesa, poi però uno zio gli regala un disco di King Curtis, che era un sassofonista che allora era molto famoso, e lui scopre il rock e il sax nello stesso momento, e questa per lui è la rivelazione. Sono cresciuto in una famiglia molto religiosa, vivevo immerso nella musica soul, ma quello che volevo era il rock. Ero un rocker. Sono nato per essere un sassofonista del rock and roll. A 9 anni il padre gli regala il primo sax, è un sax alto che è però lui, per amore di King Curtis, cambia subito con un sax tenore. Dopo poche lezioni lui è già in grado di suonare qualcosa e a poco finisce per esibirsi con un gruppo jazz mentre è ancora al liceo. Poi arriva all'università, è lontano da casa, è lontano dai divieti familiari e finalmente può unirsi alla sua prima band. Si chiamano Vibratones e si esibiscono suonando le solite cover, per primo James Brown, magari in cambio di una birra, di un hot dog. Poi arriviamo al 65, lui ha preso la laurea e ogni membro del gruppo comincia a andare per la sua strada senza rimpianti. Insomma, Clarence ha bisogno di trovarsi un nuovo gruppo. però la musica non è la sua unica passione, perché crescendo il ragazzo Clarence mostra un fisico sempre più possente, alla fine arriva quasi a 2 metri, ha le spalle larghe, insomma inizia a giocare nella squadra di football americano del suo liceo e ha dei grandi risultati, risultati buoni, ottiene una borsa di studio per frequentare il Maryland State College e il suo sogno a questo punto è entrare in una delle grandi squadre di football famose come i Dallas Cowboys o i Cleveland Browns, ma il destino per lui ha in serbo altri programmi. Un giorno l'acceleratore della sua Buick Riviera Blu si inceppa. L'auto ha iniziato una corsa folle, fino a raggiungere in pochi secondi la velocità di 100 miglia all'ora. Ho provato con il freno di emergenza, ma non è successo niente. Alla fine ho tolto gli occhi dalla strada e mi sono piegato per cercare di sollevare con tutte le mie forze il pedale del gas. Era una mossa disperata, infatti non riuscì. Quando mi sono di nuovo sollevato verso il volante, mi sono ritrovato a pochi centimetri dall'albero. L'incidente è molto brutto, lui salva la pelle, però il suo ginocchio è compromesso per sempre e quindi non diventerà mai un giocatore professionista. Si trasferisce nel New Jersey e comincia a lavorare come consulente psicologico. Ho lavorato 8 anni come consulente psicologico in un riformatorio, il Jamesburg Training School for Boys. Un lavoro molto gratificante che amavo moltissimo. Mi piaceva lavorare con i ragazzi, seguirne i passi, le cadute, i miglioramenti e fare il possibile per creare un essere umano capace di interagire con la società. Ma poi le lungaggini burocratiche, tutte le cose complicate che ci sono, insomma, è diventata troppo dura. E così ho lasciato e ho trovato un altro modo, un altro veicolo per poter comunicare con i ragazzi. Il rock and roll. Il colpo d'ala è anche sapere reagire a un destino avverso, modificare il proprio destino, o forse è il destino che ti manda dei segnali, perché quel ginocchio rotto, quel ginocchio compromesso in realtà farà il bene di Clarence Clemons, di Bruce Springsteen e di tutto il rock and roll, perché lui a questo punto comincia a prendere ancora più seriamente la musica, entra in contatto con la scena musicale del Jersey Shore alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, si unisce a un musicista che si chiama Norman Seldin, comincia a suonare con il suo gruppo che si chiamano Joyful Noise. Nell'estate del 71 il gruppo suona per 7 settimane a Ashbury Park, New Jersey, ogni sera un'esibizione, insomma la routine del musicista. Una sera la cantante del gruppo, Karen Cassidy, per spezzare la monotonia della serata gli consiglia di attraversare la strada e andare a sentire un ragazzo che in quei giorni sta raccogliendo un certo successo nel circuito di Ashbury Park. E credo che il nome Ashbury Park vi dica qualcosa, anzi vi dica molto, in realtà è contenuto nel titolo del primo album di Bruce Springsteen, Greetings from Ashbury Park, New Jersey, un album che all'inizio vendette molto poco, oggi invece è inserito nella lista dei 500 migliori album del mondo ed è l'album dal quale è partita tutta la grande avventura del boss. Siamo il 4 settembre 1971. Springsteen sta suonando allo Student Prince, un club di Ashbury, si esibisce da un po' di tempo, fuori c'è un temporale con fulmini e lampi, improvvisamente la porta del locale si apre, sulla soglia compare un gigante con la sua figura che viene illuminata da un fulmine appena caduto. Forse è una leggenda, ma è una leggenda che ci piace, è una leggenda credibile. Poi il rock and roll è leggenda e in quel momento la leggenda appunto vuole che arrivi una folata di vento che scardina la porta e che la scaraventa via sulla strada. E poi il racconto di Clemons che prosegue così. Stavo suonando in un bar all'angolo di quello dove suonava lui e volevo provare a fare qualcosa con loro. Così andai e quando aprii la porta che dava sulla strada entrai e dissi solo «Voglio partecipare, è possibile?» E lui, certo, quello che vuoi. Così salì sul palco e iniziai a suonare. Fu subito una cosa magica. E da allora è stato sempre così. Da quel momento nasce l'inizio di una grandissima amicizia. E nel frattempo le storie d'amore di Clarence Clemons hanno strade altalenanti. Si è appena separato dalla prima moglie, che era una fan della musica classica, che non accettava la svolta rock del marito. Niente di grave, tenuto conto che Clemons di mogli ne avrà altre 4. In realtà la collaborazione non parte immediatamente. Per circa un anno Clemons continua a suonare con Norman Seldin, però comincia a collaborare con il boss, partecipa come sessionman all'album Greetings from Ashbury Park. Poi il 21 ottobre del 72, un anno dopo quel primo leggendario incontro, Clemons suona per l'ultima volta con la sua band. 4 giorni più tardi fa il suo debutto definitivo con la E Street Band. Insomma, tra storia e leggenda sta nascendo una grande collaborazione e una grande amicizia. Quella notte la porta saltò letteralmente in aria per la tempesta e capii subito che avevo trovato il mio sassofonista. Ma c'è stato anche qualcos'altro. Qualcosa accadde quando ci ritrovammo fianco a fianco. Alcune energie, alcune storie non pronunciate. Per 15 anni Clarence è stata una fonte di mito e di luce e di enorme forza per me sul palco. Ha riempito il mio cuore tante notti e mi piace quando alla fine della serata mi avvolge fra le sue braccia. La prima volta che ci incontrammo e lo guardai, sembrava che la sua testa raggiungesse le nuvole. E al suo confronto mi sono sentito come un semplice mortale che striscia sulla terra. Il falco. E il gabbiano. Stiamo parlando di Clarence Clemons, Big Man, la colonna sulla quale per 40 anni Springsteen si è appoggiato, e con lui tutta la E Street Band. È stato molto di più di un sassofonista. Alla fine di ogni concerto Bruce lo abbracciava con grande affetto, e peraltro la scena era molto bella da vedersi, perché Clemons, l'abbiamo detto, era alto almeno 20 cm più del boss. Mi sono appoggiato molto a Clarence. In un certo senso ci ho costruito sopra una carriera. E i due hanno sempre sottolineato questo carattere straordinario del loro incontro. Ne hanno parlato come se fosse una specie di miracolo, qualcosa di scritto in cielo. È nata una vera e propria mitologia su incontri come questo. Jackson Brown, per esempio, che assieme a Clemons ha inciso una canzone di grande successo negli anni 80, You're a Friend of Mine, è uno di quelli che hanno sempre sottolineato questo aspetto. Quello che Clarence ha portato alla E Street Band è il potere dell'amicizia, dell'inclusione e dell'amore che redime. Per la band ha suonato un sax caricato al massimo. È lui che nelle canzoni di Bruce ha creato tanti momenti emotivi e catartici, davvero potenti. Aveva una totale padronanza dello strumento e riusciva a rafforzare la potenza di quello che Bruce stava creando. Ha portato la musica alle origini del rock and roll. È difficile immaginare quel genere di musica senza di lui. La consacrazione di Clarence Clemons e della sua amicizia con Springsteen arriva con l'album Born to Run, perché sul fronte della copertina c'è la foto in bianco e nero di Bruce che si sta appoggiando a qualcosa quando si apre anche il retro copertina, quando c'erano quei bei vinili che ti facevano vedere l'arte, non c'erano i file. Insomma, quando si apre il disco si vede che il boss si sta appoggiando a Clemons. Springsteen ha detto così in un'intervista: quando si guarda semplicemente la copertina di Born to Run, si vede una bella foto, la bella copertina di un album. Ma solo quando lo si apre e si vedono Clarence e me insieme, l'album svela tutta la sua magia. Ormai il sax di Clemons è protagonista assoluto del rock e della poetica springsteeniana. Il suo picco probabilmente è l'assolo di Jungleland, dove Clemons dà alla canzone un carattere unico, un carattere che è frutto anche di lunghissime session fino a 18 ore consecutive. La prima volta che ho sentito il modo in cui Bruce l'aveva costruita, non riuscivo a parlare. Era la canzone che parlava alla mia anima, perché era la perfetta combinazione dei nostri talenti, delle nostre abilità e della nostra profonda connessione mistica. Bruce prese ciò che avevo suonato, tutti quei piccoli pezzi, e li aveva legati insieme a ciò che sentiva nel suo cuore, e poi messi insieme in un modo che è senza tempo. Ogni volta che lo suono, sento che rappresenta la nostra partnership musicale in un modo che è al di là delle parole. Per me quella solo è come l'amore. Clemons è un mistico, lui parla d'amore, di cuore, di connessione, tutto deriva dalla sua concezione, insomma, molto emotiva dell'esistenza, e anche quando parla del suo rapporto con Springsteen, che comunque è da leggere in questa chiave. Del resto lui era famoso per chiedere un camerino tutto suo a ogni concerto, ed era famoso per trasformare questo camerino in una specie di santuario, e Springsteen chiamava questo camerino The Temple of Soul, il tempio dell'anima. Fin dai primi giorni in cui io e Clarence abbiamo viaggiato insieme, stavamo su fino a tardi nelle nostre camere, e in pochi minuti si trasformava la sua in un mondo a parte. Venivano fuori le sciarpe colorate da stendere sopra le lampade, le candele aromatizzate, l'incenso, l'olio di patchouli, le erbe. La musica e tutto quello che era successo durante il giorno venivano messi da parte, e Clarence, lo sciamano, regnava e faceva le sue magie, notte dopo notte. Per 15 lunghi anni Clemons e tutta la E Street Band seguono Springsteen ovunque nel mondo. Dopo Born to Run, la parabola ascendente del boss è inarrestabile. Ci sono album fondamentali per la storia del rock: Darkness on the Edge of Town nel 78, The River nell'80. Poi c'è l'interruzione dell'album Nebraska, un album particolare dove Springsteen suona da solo. Poi arrivano Born in the USA e Tunnel of Love. Ma nell'89, a sorpresa, arriva la separazione del boss dalla E Street Band, e l'annuncio di Springsteen arriva come un fulmine a ciel sereno. Clemons è nel frattempo in giro per il mondo con Ringo Starr, ma sta aspettando la solita chiamata del boss. Ero in tour in Giappone con Ringo Starr. Bruce chiamò e mi disse: è finita. Pensai che volesse che tornassi a casa per suonare con lui, e che fosse un modo per dirmi che il tour con Ringo era finito per me, e gli dissi: certo, salgo sul prossimo aereo. Ma lui rispose: no, la E Street Band è finita. Ero scioccato. Mi sono sentito ferito e arrabbiato, tutto insieme. Poi dopo un po' ho pensato: ma deve fare quello che deve fare, va bene così. Ma provo ancora dolore al solo pensarci. Era irreale. La band è andata per sempre. È un colpo duro per Clemons. Non segna questo la fine della sua storia musicale. Ci sono moltissimi dischi importanti ai quali partecipa: Jackson Browne, poi lo chiama Lady Gaga, e poi collabora con Aretha Franklin in Freeway of Love. Poi c'è anche una onorevolissima carriera come attore che Clemons ha intrapreso da qualche anno. Ha partecipato per esempio al film di Martin Scorsese, New York, New York, suonando peraltro la trombe. Poi altri film, anche il sequel dei Blues Brothers, e poi programmi televisivi di successo. Insomma, lui si dà da fare, non ha certo problemi né economici né artistici, ma niente riesce a togliergli la tristezza di quell'addio con il boss. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1995. Il protagonista della nostra puntata di oggi, Clarence Clemons, riceve quella telefonata che stava aspettando. Bruce Springsteen, assieme alla E Street Band, lo chiama perché devono reincidere delle vecchie canzoni. È un primo avvicinamento. La vera reunion avverrà nel 1999, 10 anni dopo la separazione. Il tour si chiamerà Reunion Tour e culminerà con uno speciale per la televisione via cavo HBO Live in New York City, è l'inizio di un nuovo ciclo. Tour e poi l'album The Rising e poi Magic e poi altri ancora, ma è nei tour che Clemons dà il suo meglio. Il sodalizio che ha con Springsteen funziona alla perfezione lì sul palco. Sentiamo il ritratto che ne fa Bruce. Il nostro era un rapporto molto semplice, era come se avessi trovato delle parti che mi mancavano, sogni che non avevo. Aveva questa forza incredibile, ma al tempo stesso era anche fragile e timoroso, e forse era questo che ci univa. Eravamo entrambi un po' insicuri nel profondo, entrambi fragili quando ce ne stavamo ognuno per conto proprio. Ma quando stavamo insieme, stavamo benissimo. Eppure eravamo persone molto diverse. Lui era veloce, rilassato, selvaggio, aperto, mentre io tendo a essere un po' più conservatore. Eh sì, l'assolo dei sax, è un po' la ciliegina su questa meravigliosa torta, la E Street Band. Insomma, è una band monolitica che sa cos'è il rock, sa maneggiarlo e lo sa soprattutto il pubblico. E quando arriva il momento dell'assolo dell'amico Clemons, è quasi il, come dire, il culmine della serata per certi versi. E poi c'è la loro amicizia, che è un'amicizia non particolarmente scontata, perché quando hanno iniziato a suonare assieme e la divisione tra bianchi e neri era ancora molto forte, le band erano spesso o di soli bianchi o di soli neri, se si mischiavano era difficile trovare posti che fossero disposti a far suonare delle band miste, e Bruce e Clemons erano perfettamente consapevoli di questo. Penso che forse ho protetto sì da un mondo in cui ancora non era così facile essere robusti e neri. Il razzismo era sempre presente e durante gli anni insieme lo abbiamo visto. La celebrità di Clarence e la sua stazza non lo rendevano immune. Penso che forse sì ha protetto me da un mondo in cui non era sempre così facile essere un ragazzo bianco insicuro, strano e magrolino. E poi dopo gli anni 2000 Clemons deve cominciare a fare i conti anche con i vecchi acciacchi, tanti incidenti sportivi, la sua stazza 2 metri per 130 kg di peso, e quindi nel 2009 arrivano i primi interventi a queste ginocchia malandate nei concerti. Ormai bisogna mettergli una sedia per stare comodo tra un assolo e l'altro, ma lui non perde la sua verve perché la musica gli scorre ancora dentro. È come un fiume, non riesco a starne lontano. Mi segue, cambia percorso per stare con me, per stare con me e definirmi. È il mio scopo, mi scorre nell'anima e sempre lo farà. E non c'è nulla al mondo, morte compresa, che potrà impedirmelo. E poi nel giugno 2011 arriva un infarto che lo coglie nella sua casa in Florida. 2 operazioni, le condizioni che sembrano migliorare. Poi il 18 giugno Clarence Clemons muore per le complicazioni sorte dopo l'infarto a 69 anni. Queste sono le parole che gli dedica il suo amico Bruce. Eravamo uniti, eravamo forti, avevamo ragione, eravamo inamovibili. Eravamo divertenti, sdolcinati nel peggiore dei modi e seri come la morte stessa. E arrivavamo nelle vostre città a scuotervi e a svegliarvi. Insieme abbiamo raccontato una storia più vecchia e più ricca di noi, sul senso dell'amicizia. Una storia che va ben oltre quelle che posso aver scritto nelle mie canzoni. Una storia che Clarence portava nel cuore. Morendo, Clarence non lascia la E Street Band, la lascia quando moriamo noi. Grandi amicizie che sono anche grandi colpi d'ala, persone che dovevano incontrarsi magari per fare musica come il boss Springsteen e Clarence Clemons, un uomo che ha dato tanto al rock e soprattutto al grande progetto della E Street Band. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei, sui nostri social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Francesca Filiasi, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.